La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Un saluto e ben ritrovati alla Rosa Purpurea, l'appuntamento al cinema della fase 2 qui su Radio 24. In verità, per quanto riguarda il cinema, non ci siamo ancora mossi dalla fase 1 e chissà quanto ancora ci resteremo, forse riusciremo a dirvi qualcosa di più prima della fine di questa trasmissione. Per cui occhi puntati sui piccoli schermi per ora, dove sono molti nuovi film ad arrivare in direct to streaming. Quando il cinema è donna, così potremmo titolare questa puntata, due registe e un'attrice saranno le voci che ci racconteranno i film di oggi. Cominceremo con Emanuela Rossi, regista di Buio, thriller apocalittico indipendente con molte suggestioni da lockdown. Proseguiremo con Anna Foglietta, che si fa in tre ruoli per DNA decisamente non adatti, esordio alla regia di Lillo e Greg, e infine Cristina Comencini, che propone il suo Tornare, thriller psicologico con Giovanna Mezzogiorno. Ma c'è anche una voce maschile, oltre alla mia, quella di Boris Sollazzo, con cui parleremo di cinema un po' più fisico, diciamo così, con Tyler Rake, dove Chris, Thor, Hemsworth ne ammazza millanta, e musicale, con la storia dei Beastie Boys raccontata da Spike Jonze. Infine i David di Donatello, assegnati in streaming, Stravince il traditore di Marco Bellocchio, 6 statuette tutte pesanti, miglior film, regia, sceneggiatura originale, montaggio, attore non protagonista Luigi Locascio e attore protagonista Pier Francesco Favino, che ascolteremo subito dopo il premio in un messaggio speciale per gli ascoltatori della Rosa Purpurea. Ma se sono tutti morti, noi siamo le ultime persone rimaste sulla Terra. Perché solo noi ci siamo salvate? Perché siamo speciali. Allora Dio ci aiuterà. Sì, ci aiuterà. Levo la maschera, gioco di tattica, rido la vita, se fosse drammatica, calcola ciò che ti fa, tematica, gioca i tuoi numeri, io gioco a tavola. Stella, luce, aria. Guardavano al cielo papà e mamma quando scelsero i nomi per le loro bambine. Oggi Stella ha 17 anni e da molto tempo vive con le sorelle minori in una casa dalle finestre che non ridono, anzi letteralmente sbarrate, dove il cielo non si vede. Una sorta di eterna quarantena gestita con pugno di ferro da un padre padrone che quando rientra dal mondo esterno si spoglia della maschera antigas e della tuta termica, porta il cibo alle figlie e le aggiorna con i racconti dell'apocalisse in corso. Racconti fatti di gente senza occhi, mani che cadono a pezzi, umanità decimata. Colpa di un sole accecante e cattivo che sta facendo terra bruciata. Ma le ragazze crescono e i racconti del padre non bastano più. Un giorno l'uomo non torna, il cibo scarseggia e Stella, la più grande, si avventura nel mondo esterno, dove scoprirà la verità su chi sia il vero nemico. E adesso un po' di musica. Facciamo una cosa che ho visto fare fuori. È la storia di Buio di Emanuela Rossi, già co-regista della serie TV Non uccidere, qui al suo esordio in un lungometraggio. Un film anomalo per la produzione italiana, un thriller apocalittico a basso budget che annovera nel cast un volto noto come quello di Valerio Binasco nei panni dell'inquietante padre e il volto angelico di Denise Tantucci, che presto, speriamo, vedremo nel nuovo film di Danny Moretti. Singolare anche la formula distributiva, direct to video a 4,90€, ma col coinvolgimento degli esercenti cinematografici che invitano il pubblico alla visione attraverso le proprie mailing list con link personalizzati per ciascun cinema. In pratica potete scegliere in che cinema vederlo, anche se lo vedrete da casa. Il film riesce quasi sempre a far dimenticare il basso budget grazie agli stratagemmi di regia, ma si muove meglio nell'inquietante atmosfera preparatoria della prima parte che non in quella rivelatoria della seconda, riscattandosi nel doppio twist narrativo del finale. Però Buio rimane un esperimento apprezzabile, raccontare l'ossessione interna di una famiglia attraverso l'oppressione esterna di una condizione atmosferica avversa e letale. Non è coronavirus, ma poco ci manca. Salutiamo alla Rosa Purpurea alla regista Emanuela Rossi. Ciao Franco, sono molto contenta di essere alla Rosa Purpurea, un programma che segue amo. Grazie e saluto tutti gli ascoltatori. Emanuela, Buio racconta, come dicevamo, la storia di una famiglia chiusa in casa che per procacciarsi il cibo deve bardarsi di maschere antigas e occhiali oscurati per difendersi da un ambiente esterno ostile. L'hai presentato nell'autunno scorso a Roma, quando ancora la pandemia era roba da fantascienza. Sapevi qualcosa o hai un buon medium? Allora, io non sono certo una che vede e stravede, non ho la palla di cristallo, non ho niente. Però diciamo che qualche segno forse era un bel po' che lo che lo sentivo, che c'era nell'aria. E io da anni che d'estate sono terrorizzata perché fa troppo caldo, ho cominciato a pensare che prima o poi diciamo, non saremmo potuti più uscire e saremmo rimasti tutto il tempo chiusi in casa come poi in un romanzo di Ballard. E quindi, insomma, in effetti, dice Amit of Gosh che in un grande saggio recente che l'Occidente vive una grossa rimozione rispetto a quello che sta succedendo intorno a lui, proprio in questo delirio dell'onnipotenza dell'uomo, no? Che crede di essere solo al centro dell'universo, e quindi, insomma, non si rende conto, è cieco proprio rispetto a quello che la natura sta organizzando di brutto intorno a lui. Nel contesto di un thriller apocalittico, racconti anche le pressioni e il terrore generati dal fanatismo religioso nel luogo che si pensa più sicuro per i ragazzi, la famiglia. Perché? Certo, Buio fa riferimento a un modello educativo del passato, alla triade, diciamo, Dio, padre e famiglia, che forse per alcuni ragazzi è qualcosa di sconosciuto, magari non capiscono neanche di cosa si parli, è obsoleto. Però è anche vero che, diciamo, questo può essere una metafora adesso, questo modello educativo, di certi neoconservatorismi che stanno venendo fuori, e in qualche modo questo profumo di conservatorismo è rimasto e sta trovando nuove forme, e purtroppo anche molto pericolose. Dreams are my reality. The only kind of real fantasy. Non dimenticheremo il volto e gli occhi di Denise Tantucci, anche perché mentre tu giravi il film, l'ha chiamata Nanni Moretti per il suo Tre piani. Il personaggio di Denise è estremamente complesso, passa insomma da momenti in cui sembra appunto una vittima ad altri in cui quasi può sembrare una carnefice, e quasi imitando il padre, e quindi serviva un'attrice che avesse una complessità in sé, e Denise ce l'ha, una personalità particolare, quindi insomma per me è stato prezioso questo scambio, no, per costruire il personaggio. Tra l'altro, ha dovuto perdere, insomma, proprio per esigenze di scena, un bel po' di chili, e questo, insomma, mi sono sentita un po' carnefice in questa dieta che lei pativa molto. Mi ricordo delle telefonate tipo coach, e insomma, questo secondo me è servito, questa storia, questo, insomma, trattamento un po' all'americana è servito perché poi lei stessa mi ha detto che aver patito un po', diciamo, delle restrizioni l'ha aiutata nella recitazione. Grazie Emanuela Rossi, a presto, magari davanti a un grande schermo. Sì, assolutamente, speriamo davanti a un grande schermo. La prossima volta Buio lo voglio vedere in sala, però intanto accontentiamoci dello streaming. Saluto tutti, grazie. E ora indossiamo l'elmetto, mettiamo il giubbotto antiproiettile e trasferiamoci nell'Asia meridionale a schivare i proiettili di Tyler Rake. Abbiamo una missione. Quanti nemici sul posto? Il più grande signore della droga dell'India contro quello del Bangladesh. Sembra una stronzata mitologica. Un'estrazione. Il figlio di un signore della droga. Il tempo scade tra 16 ore. Ultima prova che è ancora vivo 6 ore fa. Mister, che mi ha schierato. Ovi è un ragazzino dell'India benestante, figlio di una famiglia facoltosa e piuttosto rigida. Vive in una casa tutta vetrata e grandi spazi, degna di una rivista di architettura. Protetto e anche un po' imprigionato, però, da uno stuolo di guardie del corpo, capeggiate dal tutore Saju. Ovi vive senza il padre, in galera, in quanto massimo narcotrafficante dell'India. Per questo non deve mai uscire di casa, troppo rischioso. Ma la gioventù, si sa, di per sé è un po' scapestrata e una sera, attratto dalla prospettiva di incontrare in un bar la ragazza amata, Ovi trasgredisce e se ne pentirà. Viene rapito infatti dagli uomini di Amir Asif, il più grande narcotrafficante del Bangladesh, e portato in un fetido appartamento della capitale Dhaka. E qui entra in gioco Tyler Rake, il mercenario, al quale verrà chiesta la missione impossibile di liberare il ragazzino e riportarlo al padre. Non sarà semplice e serviranno molte munizioni. Quel ragazzo è un morto che cammina. Suo padre non può proteggerlo. Tu hai figli? Sì, uno. È morto qualche anno fa. La cosa migliore sarebbe andare al piano di sopra a sparargli dritto in testa. Un po' Rambo, un po' Commando, con un pizzico di John Wick, Tyler Rake ha il volto e i muscoli di Thor, Chris Hemsworth. In scrittura, ad adattare la graphic novel d'origine, Chudad, ci sono i fratelli Russo, registi di Avengers Endgame. In regia, il capo degli stuntmen di quel film, Sam Hargrave. Ne viene fuori un film che si muove su un impianto narrativo già visto, sicuramente, ma dall'alto tasso di adrenalina e con una scena centrale in piano sequenza che vale il prezzo dello streaming, una vera goduria. Un successo da 90 milioni di visualizzazioni nel mondo che ha convinto Netflix a commissionare a Joe Russo la sceneggiatura di un sequel. Ma il nostro Tyler Rake e Boris Sollazzo che salutiamo. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Boris, che ti devo dire? Io mi sono divertito, e tu? Che ti devo dire, Franco? Anch'io mi sono divertito, ma da matti. Mi è sembrato di tornare negli anni Ottanta, ma con tutte le skills, direbbero quelli bravi di questi anni, di 40 anni dopo, a livello di costruzione della messa in scena delle scene d'azione, a livello di effetti speciali e anche di velocità, di ritmo di montaggio. Non è un caso che la formazione sia quella che tu hai raccontato, cioè i fratelli Russo, che sono probabilmente i re dei blockbuster propriamente detti, e soprattutto di un certo tipo di blockbuster che fanno dell'azione e del cinema muscolare il loro vessillo. Non è un caso che ci sia il capo degli stuntman alla regia. Si sente la freschezza, la potenza, la forza, la voglia anche di un cinema d'azione. Propriamente detto, ci eravamo fatti strozzare da una dicotomia che metteva da una parte i vari Taken, cioè quei cinema d'azione un tanto al chilo che avevano dei filoni infiniti e quasi subito sterili, e dall'altra, diciamo, un'azione che era diventata troppo intellettuale. E invece il classico film che avevamo visto all'ultimo, forse l'ultimo di quel tipo era Crank. Il classico film d'azione, il classico action movie, ci mancava. Tyler Rake è proprio questo, ha un eroe muscolare, un eroe che non si fa problemi, un eroe che ha qualche debito verso John Wick, ma lo supera in genuinità di racconto e costruzione, ha una buona sceneggiatura solida, non troppo originale, ma neanche banale, e fa un po' impressione quella scena in cui c'è qualcuno che viola una quarantena, anche se autoimposta, e per questo viene punito. È in qualche modo una storia che sembra lontanissima da quello che stiamo vivendo diventa attuale. Funziona. Bisogna divertirsi, bisogna catarticamente fare qualcosa e vedere qualcosa che sia diverso da quello che stiamo vivendo, e quindi Tyler Rake è perfetto. E questo era Tyler Rake su Netflix, ora linea alla viabilità, restate con noi però perché fra poco parliamo con Anna Foglietta, la protagonista unetrina di DNA decisamente non adatti. La rosa purpurea. Sa dottore, oggi dopo molti anni ho incontrato Nando, mio vecchio compagno di scuola. Oh, mi devi chiamare Bulldog, voglio una cosa da te. Vessava in continuazione, mi bullizzava. Poi ne voglio mille, non mi porti le gonfie le botte. Eh sì, un'infanzia decisamente impegnativa, quella del piccolo Ezechiele, vessato e bullizzato dalla banda di Monelli guidata da Nando. Il tempo passa, i fantasmi restano e a volte si ripropongono. Nando ora si fa chiamare Bulldog, ma la banda è sempre quella e i modi uguali. Al segnale mio, entrate e sfasciate tutto. Ma nel mondo tutti prima o poi possiamo avere bisogno degli altri, anche di chi ci è più distante. Ed è così che un giorno il rozzo e violento Bulldog, che cerca di convincere a suon di sberle i negozianti a liberare i loro locali per lasciare campo libero alle mire espansionistiche di un magnate del cibo spazzatura, capisce che un po' più di autorevolezza non guasterebbe. Così come a Ezechiele, bullizzato anche in casa da una moglie amantide e da figli decisamente truzzi, servirebbe un po' più di autorità. Ed ecco che l'idea matura nella mente di Ezechiele, professore di genetica. Mi servite, professore. Mi devi imparare le buone maniere, se no mi tocca massacrare. Sto tentando di effettuare un trasferimento caratteriale da due soggetti diversi. Si può fare! Inserire nel proprio corpo il carattere di un altro, un sogno accarezzato dalla letteratura prima che dalla scienza. C'è infatti l'eterna lotta fra Dr. Jekyll e Mr. Hyde, in salsa di commedia, alla base di DNA, decisamente non adatti, che segna l'esordio alla regia di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, al secolo Lillo e Greg. Il film, disponibile sulle principali piattaforme di streaming a pagamento, si avvale però di tre figure femminili imprescindibili, cartine al tornasole per restare alla chimica, che scatenano le reazioni dei due protagonisti: Elena, il saggio trans, Renata, la dolce libraia, Jessica, la moglie bramosa. Tutte e tre interpretate da una splendida Anna Foglietta, che è in collegamento con noi. Ciao Anna e ben ritrovata alla Rosa Purpurea. Salve a tutti e buongiorno. Buongiorno a tutti. Anna, diciamo che ti sei fatta in tre. Tre donne, tre caratteri diversi e anche tre matrici di recitazione molto distanti l'una dall'altra. Raccontaci come hai affrontato questa sfida. In questo film di Lillo e Greg inizialmente avrei dovuto fare due ruoli. Lillo mi chiama, dice: Annarella, leggisi la sceneggiatura, vedi, ci sono questi due personaggi, secondo me sono perfetti per te. Io mi leggo la sceneggiatura e in realtà scopro che ce ne sono tre di personaggi interessanti e giusti per me, così tanto diversi l'uno dall'altro, per cui era proprio la sfida di poter affrontare all'interno dello stesso film tre ruoli così, così diversi. Li abbiamo caratterizzati parecchio, ovviamente, non poteva che essere altrimenti in un film di Lillo e Greg, cercando però di dargli una verità. Le frustrazioni, le insicurezze, i desideri comunque partono sempre da una matrice di verità, che è quello che rende anche interessante le commedie. Elena è una libraia apparentemente insicura, invece poi scopriremo molto determinata, che ha come suo migliore amico Flaubert. Penso che tu sia una persona semplice ma anche profonda. Poi abbiamo Renata, che invece è questa casalinga molto annoiata, decisamente rifatta, che disistima il marito a livelli veramente cosmici. Io ho bisogno di un uomo, vero? Io sono la messalina del tuo lupanare. Infine abbiamo Jessica, questa trans, che dà dei consigli incredibili ai suoi clienti, come se fosse una consulente più che appunto una compagna d'amore. Tu devi frequentare gente che ti rende migliore. Nel film si racconta l'iniezione dentro se stessi di un carattere diverso dal proprio, anzi un vero e proprio scambio in questo caso. Ti è mai capitato di pensare: e se avessi un po' della sicurezza di quella o della grinta di quell'altra? E con quale personaggio della storia, del cinema e non solo, faresti un esperimento come quello di Lillo e Greg? Beh, capita molto spesso di vedere dei film e di pensare: mamma mia, piacerebbe tantissimo fare quel personaggio, mi piacerebbe tantissimo vivere quella storia. Per esempio, io ero incinta, mi ricordo, il mio primo figlio, e vidi Marion Cotillard che faceva Edith Piaf, e io proprio ho detto: vabbè, io smetto di recitare, perché dopo che ho visto un'interpretazione simile non ce n'è per nessuno. Però no, non mi è mai capitato onestamente di voler essere qualcun altro. A volte è chiaro, l'insicurezza ti porta a pensare che ci possono essere magari delle persone che se la vivono meglio, poi in realtà vai più avanti con gli anni e ti rendi conto che tutti quanti abbiamo le nostre insicurezze, soprattutto nel nostro ambiente, e che siano benedette, perché secondo me ci spingono le nostre fragilità ad essere davvero, insomma, quello che siamo, per fortuna che esiste. Che bambina o ragazzina era Anna Foglietta al tempo della scuola? Allora, io ai tempi della scuola, delle elementari, ero una ragazzina molto molto forte, mi prendevo spesso e volentieri cura degli altri, soprattutto delle persone più in difficoltà. Ero comunque dinamica, mi piaceva tantissimo anche lì, insomma, fare teatro. Mi ricordo che la maestra mi eleggeva sempre in qualche modo un po' capoclasse, perché mi vedeva intraprendente. Insomma, sono stata una bambina sempre molto volitiva, oggi direi una secchiona rompiscatole, ma no, perché poi non era una forma di, non era una nerd, ero proprio una che gli piaceva stare in mezzo alla gente, un po' come sono adesso, insomma, compagnona e comunque sì, tendevo ad essere solare, una bambina piuttosto solare, anche se poi mi ricordo invece nel privato, in famiglia, ero più chiusa, più timida e anche più riflessiva, però a scuola mi ricordo che era proprio il mio luogo di gioia, la ricordo come un'esperienza veramente molto bella. Grazie Anna Foglietta, triprotagonista di DNA decisamente non adatti con Lillo e Greg, ci vediamo presto. Sì, d'accordo, allora anch'io vi saluto, un grande abbraccio, ma di quelli veri, e speriamo di rivederci presto, per il momento sulle piattaforme con DNA, guardatelo, e poi dopo magari in qualche anteprima, insomma lo spero presto, a qualche intervista live, un abbraccio. È molto carino questo posto. Carinissimo. Facciamo un brindisi, ti va? Dai. All'amore. All'amore. Oddio. Oddio, scusa Elena, non so che mi ha preso. Di solito non le faccio mai queste cose, perdonami. Non è un problema, tranquillo. Che non vorrei rovinare sta serata meravigliosa. Vedi Elena, delle volte è difficile trovare le parole giuste. Ma se tu mi guarderesti negli occhi, capiresti quello che provo per te. Sento l'urgenza di farti una domanda che mi viene dal profondo del cuore. Te posso dare una botta? E siamo arrivati al nostro primo spazio dedicato al DVD game. Anche oggi si gioca in grande con due Blu-ray che vi aspettano di questo film che dovete indovinare. Sentiamo. Era la paura a tenermi qui. Di che cosa hai più paura? È un film, diciamo, che ha ampie radici, insomma, nell'immaginario. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche recentemente per una ricorrenza che si è verificata. Allora, se avete già indovinato il film, mi raccomando, titolo completo, vi è più questa volta, completo, titolo e vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due Blu-ray vi aspettano, fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Now here's a little story that I got to tell about three bad brothers that you know so well. It started way back in history with that rock. MCA. And me. Mike D. Hello, everyone. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. The Beastie Boys. The Beastie Boys. The Beastie Boys. The Beastie Boys. The Beastie Boys. The Beastie Boys. No sleep till... La storia dei Beastie Boys, raccontata da Mike Diamond e Adam Horowitz, componenti storici della band newyorkese e amici da 40 anni, in un documentario diretto dall'amico e collaboratore di vecchia data Spike Jones, che adesso approda su Apple TV+. Jones, per intenderci, è il regista di film come Essere John Malkovich, Il lado di orchidee e Lei, che gli è valso 3 nomination e un Oscar alla sceneggiatura. Il signor Coppola, il marito di Sofia, qui fa un passo indietro in termini registici, non tanto di qualità, ma proprio di approccio. Niente fuochi d'artificio, ma la misurata ripresa dello spettacolo messo in scena da Ad Rock e Mike D al King's Theater di Brooklyn alla fine del 2018. Ritroviamo Boris Sollazzo. Boris, diciamo la verità, Jones non ha fatto troppa fatica, tanto che per questo film si è coniata l'espressione di documentario dal vivo. Però il risultato è lo stesso divertente, anche per chi come me, per esempio, non ha i Beastie Boys nella playlist. Merito soprattutto dell'istrionismo narrativo sul palco e del sense of humor di Ad Rock e Diamond. Sì, Franco, i Beastie Boys hanno una cosa in comune con Spike Jones, che o li ami o li odi. E io personalmente li amo e quindi mi sono divertito. Non amo moltissimo il format di questo tipo di documentari, che per intenderci è anche quello di 8 Days a Week di Ron Howard, quindi parliamo di un personaggio molto in alto, con grandissime capacità di storytelling, e che però vedono il documentario come in qualche modo qualcosa che restituisca un'esperienza, ed è impossibile, anche se in questo momento, per esempio, abbiamo fame di concerti e quindi ci basta anche quello. E qui invece c'è un qualcosa che strozza l'emozione, strozza la forza, e infatti non a caso, come dici tu, quello che tu senti è un po' quello che succedeva anche nel film sui Rolling Stone di Martin Scorsese, che pure però aveva intuizioni di regia migliori e più originali, cioè è il carisma dei reali protagonisti. Si fa fatica soprattutto a non chiedersi perché mobilitare Spike Jonze, un uomo che ha un immaginario fortissimo, che ha un talento straordinario, anche se discontinuo, per fare qualcosa che avrebbe potuto fare forse anche meglio un grande regista di videoclip, un grande regista di concerti. Sembra francamente un'operazione di marketing, un po' come quando certe macchine venivano firmate da dei VIP, poi evidentemente il lavoro era stato fatto da altri. E quindi è un ottimo lavoro tecnico. Per chi ama i Beastie Boys non c'è nulla di nuovo, esattamente come era per i Beatles nei Days a Week di Ron Howard. È un lavoro soprattutto forse per chi non li conosce, ecco, proprio per te Franco, per chi li conosce poco, per chi non li ha nella playlist e magari dopo questo li avrà nella playlist, e forse è proprio questo il segreto: si cerca di allargare il pubblico dei Beastie Boys. No, no, di nuovo io alla regia, però restate con noi perché fra qualche istante sarà qui alla Rosa Purpurea Cristina Comuncini per raccontarci il suo tornare. La Rosa Purpurea. Non ho fatto in tempo a vederlo. Mi sento molto in colpa per non essere più tornata dopo la morte di mamma, ma non volevo ricordarmelo così. La memoria si ricorda solo quello che vuole ricordare. Sei cambiata, non sembrate quasi la stessa persona. Ma scusi, ma ci conosciamo? È passato tanto tempo, eppure sembra tutto così presente. Tuo padre parlava sempre di un fatto che era successo prima della tua partenza. Alice ha 40 anni quando torna a Napoli dopo una lunga assenza, richiamata dalla morte del padre, militare di carriera. Siamo negli anni 90, senza internet e telefonini, e la distanza è distanza vera. Nella casa di famiglia affacciata sul mare del Golfo di Napoli, Alice incontra la sorella per prendere la decisione più faticosa, svuotare la dimora dagli oggetti di una e più vite e venderla al miglior offerente. Però, inaspettatamente, Alice scopre di non essere sola in quella casa, abitata anche da una ragazza giovane e bellissima. Anche lei si chiama Alice e sembra sapere molte cose del suo passato, come anche Mark, un uomo affascinante e gentile che dice di conoscerla bene, ma di cui Alice non ha alcun ricordo. Le stanze segrete della mente, come le grotte sotterranee su cui poggia la casa, si aprono una ad una, facendo riemergere squarci di passato dolorosi e pericolosi. Che stavate facendo là fuori con quello? Guarda che ti ho visto. Bleh, che schifo, vi baciavate. Anche tu ti stavi facendo fregare. Scusa, non ho capito. Io mi chiamo Alice. Come Alice nel Paese delle Meraviglie, lei è l'unica che non si fa fregare. Infatti non è una principessa, perché tutte le principesse si fanno fregare. Tornare è il nuovo film di Cristina Comencini, interpretato da Giovanna Mezzogiorno, presentato nell'autunno scorso alla Festa di Roma e ora disponibile sulle principali piattaforme a pagamento. Un'indagine psicologica sul tempo e sulla memoria, che gira un po' a vuoto nella sua prima parte, un po' troppo ombelicale, ma poi vira sul thriller psicologico, o thriller dell'anima, come lo chiama la stessa regista, sempre lontano da tentazioni realiste, ma vicino, anzi dentro, i meandri della memoria della protagonista. E man mano che ci avviciniamo alla soluzione del quesito cosa è successo 20 anni fa in quella casa, la tensione sale e il film prende quota. Ne parliamo con Cristina Comencini, che è in collegamento con noi. Ciao Cristina e ben ritrovata qui alla Rosa Purpurea. Buonasera a voi. Cristina, tornare è un viaggio nella memoria e nei suoi angoli più reconditi, su quel che ci nascondiamo e su quel che ricordiamo. Cosa ti ha spinto su questa tematica? Tornare viene da un testo che avevo scritto in realtà per la letteratura, poi non l'ho pubblicato, in cui avevo avuto quest'idea. Era un periodo un po' duro della mia vita e abitavo in una casa e ho pensato sarebbe bello capire com'ero a 18 anni e di colpo ho immaginato che questa ragazza, me stessa a 18 anni, venisse a trovarmi. Quando ho pensato di fare un film mi è tornata in mente questa idea, ho pensato sarebbe stata molto giusta per questo film. Volevo raccontare la compresenza del passato nel presente, fare questa strana incontro che fa la protagonista Giovanna Mezzogiorno nel film, cioè di vivere un periodo della sua vita con questa ragazza che è stata, poi ci sarà anche la bambina. Non solo questo, abbiamo poi costruito un'altra trama, che è quella dell'uomo e di Napoli e di tutti i loro. È come se fossero una parte, un thriller, diciamo, interno, quello della casa, con tutte le cose che lei cerca di ricordare, no? Perché la memoria è sempre piena di buchi, molte volte sono buchi anche che riguardano delle zone che noi non vogliamo ricordare. E la presenza di quest'altro uomo che è nella realtà, e questi due terreni, cioè dell'immaginazione, della memoria e quello della realtà, alla fine poi nel film, come in un imbuto, e con una risoluzione, diciamo, da thriller, si incontrano. Cosa significa per te tornare? Tornare a un luogo, a un tempo, a un affetto? Ma tornare significa prima di tutto tornare a casa, come succede alla protagonista che ha vissuto in America gran parte della sua vita, perché da quando aveva 18 anni ed è andata via, è rimasta lì, tornando una volta forse quando è morta la madre, ma significa tornare anche a se stessa, a quello che ha vissuto e dunque alla sua vita, a quello che ha lasciato dietro. In generale, appunto, tornare anche su delle cose di cui non ci ricordiamo o che comunque ci ricordiamo in un certo modo. Nel caso della protagonista, proprio invece lei non ricorda qualcosa che è estremamente importante, che è proprio la materia stessa di questa inchiesta, di questo viaggio che fa lei per cercare di capire cos'è accaduto. Il film, come dicevo, comincia in maniera molto introspettiva, quasi una seduta psicanalitica, ma a un certo punto vira in un vero e proprio thriller. Quanto è attinto alle regole del genere? Ma io un po' ho usato sempre il genere, se ci penso, nel senso che ho usato la commedia, il melò, e vabbè, poi ci sono dei film drammatici, però dentro ci sono, anche nella Bestia del cuore, c'è sempre una suspense. Penso che proprio il modo in cui penso ai film è di comunque usare anche un genere e dilatarlo in modo che non sia completamente solo quello, sia... Credo che il genere, in questo caso proprio la suspense, aiuti moltissimo a poter raccontare anche dei sentimenti profondi e anche delle storie psicologiche. Due elementi fondamentali del film sono Giovanna Mezzogiorno, la protagonista in carne e ossa, e quella casa, anch'essa protagonista più che scenario, con i suoi lunghi corridoi e quelle grotte inquietanti che si celano sotto come nei meandri della nostra psiche. Beh, quando ho cominciato a pensare all'attrice che poteva fare il film, ovviamente ho pensato subito a Giovanna. Comunque ho fatto un provino a Giovanna, perché lei è una grande professionista e ha voluto farlo per capire se era nel ruolo, ma io già lo sapevo che lo era, perché in fondo tornare è quasi una seconda parte che è cominciata un po' con La bestia nel cuore. Dunque, anche se i due film sono diversi, questo... E tornare ancora più unitario nell'essere poi un thriller, un giallo fino in fondo, uno scavo appunto nella psiche di Giovanna e poi proprio nella casa che la rappresenta. La casa è un'altra se stessa, è un'altra lei, e dunque in questa casa, quando lei arriva, vede subito dietro il vetro, prima nel giardino vede correre una bambina e poi dietro il vetro vede la ragazza, come se loro fossero rimasti là nella casa, come se lei fosse partita lasciandola imprigionata. In fondo tutto il film racconta di come queste due se stesse imprigionate in quella casa siano alla fine libere di andare semplicemente via con lei, ecco. Come ha cambiato in te le dimensioni del tempo e dello spazio questa quarantena, Cristina? Una delle ragioni per cui ho voluto far vedere questo film al pubblico, anche se non in sala, è che perché pensavo che avesse un'assonanza con quello che abbiamo un po' provato in questi mesi di epidemia, di chiusura in casa. E cioè un'altra dimensione del tempo abbiamo sentito. Per molte persone è stata anche una... immersione in se stessi, cioè uscire dal ritmo frenetico della vita fuori per un dentro che però portava tante altre cose, perché anche le città che vedevamo dalle nostre finestre, le strade deserte o quella passeggiatina che potevamo fare, le macchine quasi passeggiando in mezzo alla strada, no? Ma io personalmente ho scoperto che si può anche stare senza fare tantissimo, cioè che forse c'è una parte della nostra vita che sono le relazioni con gli altri, quelli che abbiamo visto per molto tempo, che erano confinati con noi, o quelli che abbiamo desiderato, perché non c'erano, allora li vedevamo su Skype e così, che c'è una dimensione del rapporto con se stessi e con gli altri che è più tranquilla, che è più calma, che è difficile da raggiungere, perché come ci dicono gli orientali, rimanere in uno stesso punto è difficile, ma... Però l'abbiamo dovuto fare e penso che non dovremmo scordarcene, penso che se ce lo portiamo dietro ci dà un'altra forza, ci dà una grande forza. Grazie Cristina Comencini, ricordiamo Tornare su tutte le principali piattaforme in streaming. Cristina, speriamo di vederci presto nel luogo principe dove il cinema accade, ovvero la sala. Certo, speriamo che riaprano le sale e che ce ne siano anche di nuove e che i film possano essere visti in molti modi, la sala, nelle piattaforme, e che non siamo obbligati a rimanere a casa per vedere i film e possiamo anche uscire. Arrivederci, grazie. E siamo arrivati alla nostra seconda traccia misteriosa del film da indovinare di oggi. Ascoltate. Sei solo un ricordo. Un tuo ricordo. Una grande saga che ha scritto la storia del cinema. Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo esatto e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it. Fra poco sveliamo tutto e scoprirete il titolo del film misterioso di oggi. E ora un'altra grande iniziativa della Rosa Purpurea per il proprio pubblico e i propri ascoltatori. Qualche settimana fa avevamo giocato, ricorderete, sulla nostra pagina Facebook con una sorta di contest nel quale avevate scelto fra 4 film quello che CG Entertainment vi avrebbe regalato ai nostri ascoltatori, e vinse Selfie di Agostino Ferrente, peraltro premiato venerdì sera nella notte dei David come miglior documentario. Ebbene, ripetiamo l'esperimento, stavolta non con un voto, stavolta il film abbiamo scelto noi, ma siamo molto molto felici di offrirvelo. Si tratta de La terra dell'abbastanza dei gemelli Fabio e Damiano D'Innocenzo. Hai da investire una persona, mica sono pizze e fighi, Ciao, ma come vado a scuola? Normale. Noi adesso, senza volerlo, le abbiamo fatto un favore immenso al clan dei Pantano. Hai ammazzato un infame. Trovate il modo per farti entrare. Te mi ha sparato? Sì. No. Il film risale al 2018, fu presentato con grande favore della critica e del pubblico alla sezione Panorama del Festival di Berlino di quell'anno. E perché vogliamo offrirvi gratuitamente la visione di questo film? Perché sta per arrivare esattamente dall'11 di maggio sulle piattaforme il nuovo film dei fratelli D'Innocenzo, Favolacce, di cui parleremo nella prossima puntata anche con i registi. Però nel frattempo CG Entertainment ci dà la possibilità di vedere insieme, proprio una possibilità esclusiva per gli ascoltatori della Rosa Purpurea, di vedere insieme La terra dell'abbastanza, il bellissimo film precedente dei gemelli D'Innocenzo. E allora da questo momento sulla nostra pagina Facebook trovate tutte le istruzioni per poter vedere gratis questo film. Dovete solamente mettere mi piace alla nostra pagina e poi seguire le istruzioni. Il film sarà vostro fino alla mezzanotte di domenica 10 maggio. E allora tutti sulla pagina Facebook della Rosa Purpurea, mettete mi piace e seguite le istruzioni per poter vedere insieme e gratuitamente La terra dell'abbastanza. Ora linea alla viabilità, tra poco torniamo insieme, parliamo dei David di Donatello che si sono celebrati venerdì sera. Sarà con noi Pier Francesco Favino, che ha trionfato come migliore attore per il suo Buscetta ne Il traditore di Marco Bellocchio, che peraltro è stato il film mattatore con 6 statuette. Fra poco. La rosa purpurea. Apro la busta di questo attesissimo premio, miglior attore protagonista, premio David di Donatello a Pier Francesco Favino per il film Il traditore. È andata così. Il traditore è il miglior film italiano del 2019, secondo l'Accademia del Cinema Italiano, che ha assegnato al film di Marco Bellocchio 6 David di Donatello, tutti di peso specifico importante. Oltre al miglior film, quelli per la regia, la sceneggiatura, il montaggio, l'attore non protagonista Luigi Locascio e l'attore protagonista Pier Francesco Favino, splendido nei panni di Tommaso Buscetta. Allora, Buscetta, lei, in sede di istruttoria, ha reso un lunghissimo interrogatorio di 487 pagine. Sì, e confermo tutto. Io sono stato e resto un uomo d'onore. Sono entrato in Cosa Nostra con uno spirito e dentro di me quello spirito non è cambiato. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Cosa Nostra. Per questo, signor Presidente, Io non mi considero un pentito. E Pierfrancesco Favino è in collegamento con noi dopo una serata davvero eccezionale e immagino una notte di grande festa, anche se in famiglia, visto che il premio è stato assegnato in streaming. Ciao Pierfrancesco, grazie per essere di nuovo qui alla Rosa Purpurea. Per te il primo David alla prima candidatura da protagonista, coronamento di una stagione eccezionale completata dal tuo Craxi in Hammamet di Gianni Amelio. Che significato ha? Sicuramente c'è una grandissima gioia nell'essere riuscito dopo tanti anni a essere premiato per il premio più importante per un attore. E è importante per me, è importante per questo, è importante perché è una coccola, diciamo, che ti arriva dopo tanto lavoro e per la mia carriera non lo so, me lo auguro, anche se in questo momento è un po' complicato immaginarsela. Però lo è per ciò che mi fa dentro, lo è per la soddisfazione che mi dà, perché ho sempre creduto moltissimo in questo film e perché sono una persona che crede molto nel lavoro e che credo di averci messo tanto lavoro in questo. Se questo poi ha portato ad un risultato e questo è il risultato, sono ovviamente felicissimo. Come dicevamo, il traditore di Marco Bellocchio ha vinto 6 David, tutti di spessore importante, fra cui quello per il miglior film e la migliore regia. Tu hai definito Bellocchio il regista più giovane del cinema italiano. Hai avuto ragione? Beh, ha avuto ragione Marco Bellocchio, nel senso che è lui l'anima giovane del nostro cinema in questo caso. Io sono sempre ammirato dalla capacità di visione che ha Marco ed è solamente sua e non è viziata da nessun desiderio di piacere per forza, nessun desiderio di citarsi. È un'urgenza di un artista e gli artisti sono rari e questo secondo me lo rende giovane, la sua assoluta necessità di dipingere con le immagini per tradurre il mondo che ha dentro. Io anche solo guardandolo lavorare ho imparato tantissimo da lui e quando si ha la possibilità di questi incontri sono momenti molto belli, sono momenti che ti riempiono, ti nutrono e sono felicissimo di aver avuto questa opportunità. Pieri, i cinema sono chiusi da 2 mesi, il percorso di riapertura sembra ancora lungo, anche se ieri il ministro Franceschini ha dato segnali di prudente apertura. Per i David una premiazione da casa senza pubblico e red carpet, che emozione hai vissuto? È stato stranissimo viverla così, perché innanzitutto l'emozione che io immaginavo fosse meno forte invece si è come centuplicata. Avevo un batticuore che nelle altre occasioni non ho vissuto così. Forse lo stare insieme da un certo punto di vista normalizza quello che comunque è un evento importantissimo. In questo caso l'isolamento, seppure vissuto insieme a mia moglie, anche lei candidata, è stato strano, è stato veramente strano. E sono stato felice, emozionato di essere insieme, anche se a distanza, ai miei colleghi, a tutti i miei colleghi. Si è come ricreata da lontano questa sensazione di famiglia, di questi strani ambulanti delle storie che siamo noi. Io sono felicissimo, come ho detto ieri, orgogliosissimo di far parte di questo gruppo di persone speciali che esistono da sempre, che sono i raccontastorie, e sono sicuro che saremo in grado di ritirar presto sulla testa e di, facendo il nostro dovere, il nostro mestiere, continuare a poter essere d'aiuto alle persone, a poter nutrire qualche cosa di importante, che è lo spirito, la psicologia, la curiosità di chi vorrà andare al cinema ancora. E grazie a Pierfrancesco Favino che ci ha raccontato un po' le sue emozioni dopo questo premio. Per quanto riguarda gli altri David, 5 sono andati a Pinocchio di Matteo Garrone, fra cui scenografie, trucco e costumi, e 3 a Il primo re di Matteo Rovere. Miglior attrice è Jasmine Trinca per La dea Fortuna, miglior attrice non protagonista Valeria Golino per 5 è il numero perfetto. Un po' di delusione per il bellissimo Martin Eden di Pietro Marcello, che dalle 11 nomination ha tratto solo la statuetta per la sceneggiatura non originale. E archiviati Davide Donatello, torniamo indietro di 7 giorni, quando avevamo giocato con questo film. Dimmi, sei più vecchia e dunque onnisciente. Ti preoccupa mai il concetto che nulla è permanente? Si trattava di Frozen 2, il segreto di Arendelle, come vi avevamo già detto la scorsa settimana, ma abbiamo i nomi dei vincitori, dei nostri due ascoltatori che per primi hanno indovinato il nostro film misterioso. Si tratta di Mauro Cossi di Martellago, provincia di Venezia, e Carla Cioglia di Milano. Saranno i due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray di Frozen 2, che ci facciamo raccontare in tutti i suoi dettagli da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo del sequel di Frozen, una delle gallinelle delle uova d'oro Disney di quest'ultimo decennio. Per la ex incompresa principessa Elsa, superati i forconi e la diffidenza del popolo, è ora tempo di lasciare Arendelle, di panare la matassa del passato e appropriarsi di una verità che la renderà libera dal suo conflitto interiore, che è stato, diciamolo, caricato in questi anni di svariate simbologie, compresa una molto polemizzata possibile interpretazione riguardo un'omosessualità celata e scoperta. Questo è un film forse più attento al ritmo spettacolare dei numerosi cambi d'abito che alla sostanza dello sviluppo narrativo e tematico, ma che si presenta in un Blu-ray sfavillante che, come doti migliori, ha la resa incredibile del dettaglio video, un audio 7.1 originale da far tremare e soprattutto cantare, e un'ora di contenuti extra. Come sempre Giulio, una spulciata ai palinsesti della prossima settimana in chiaro per i film più belli da vedere senza il bisogno di pagare niente, diciamo così. Martedì 12 maggio alle 21:20 su Canale 5, Azione garantita con Tom Cruise impegnato appeso a una roccia o un elicottero, vedete voi, in Fallout, ultimo capitolo della saga di Mission Impossible, in attesa del prossimo previsto per l'agosto 2021. Questa è la trappola. Ci ha manipolati. Hunt. Ci sono due nuclei di plutonio ancora introvabili. Perché lei li ha persi? Signore, non può crederci. È impossibile. Mi hanno messo di fronte a una scelta. Proteggere te o l'IMF. Ecco perché ti riporterò indietro. E se mi rifiutassi? Cosa credi che ci sia a fare lui? È un assassino! Tu rinnega e lui è autorizzato a darti la caccia e ucciderti. È lavoro. Senza rancore. Pura Hollywood, martedì sera su Canale 5 alle 21:20 in prima visione TV, Mission Impossible Fallout. Mission Impossible è sempre più anche il ritratto di Dorian Gray, del suo padrone Tom Cruise, che vi si specchia da 20 anni, ma è anche una sorta di residuo di una Hollywood che probabilmente non c'è più, che è stata spazzata via da supereroi, cartoon, saghe young adult, con Tom Cruise che è forse l'ultimo rappresentante di quella stirpe di divi da blockbuster in grado di prevalere sempre e comunque sul regista di turno. Questo film ha oggi il fascino un po' fanè di un cinema in via d'estinzione, ben nascosto dietro un gioco di maschere e false identità che sembra rincorrere le mode di oggi, ma resta fedelmente abbarbicato al corpo del protagonista e padrone indiscusso, Ethan Hunt, Tom Cruise. Venerdì 15 maggio invece all'1:25 di notte su Rai 3 c'è la prima TV di un film italiano che ha fatto incetta di premi e critiche positive. Si intitola Aciambra di Jonas Carpignano, prodotto da Martin Scorsese. Ma sono uomo, sì. Sono già uomo. Sì? Sì. Oh, oh, viva! C'è una banda di zingari che sta facendo un casino, stanno rubando tutto. È venerdì su Rai 3 all'1:25 in prima visione TV, siamo a Ciambra, Gioia Tauro, comunità Rom, dove il cinema dell'italo statunitense Jonas Carpignano era già stato. E questo è una sorta di cinema di famiglia, nomade in Calabria con un ponte per le Americhe, dato che Martin Scorsese è produttore esecutivo. Padre e fratello di Pio sono in carcere, i debiti sono da pagare, Equitalia si presenta, la mafia non aspetta e tocca a lui, Pio, un preadolescente con la sigaretta in bocca, primi umori d'amore, e questo cinema che si prospetta come uno scorcio etnografico finisce per correre invece su quelle che sono le main street del racconto criminale, come a dire che gli strumenti sono quelli del cinema documentario, ma il film diventa sempre più un action noir che sa di Jaco di Ar per restare in Europa e per guardare oltre, appunto, a Martin Scorsese. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, volata anche quest'ora di cinema qui su Radio 24. L'epilogo, come sempre, è affidato allo svelamento del nostro film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Star Wars, l'ascesa di Skywalker, due Blu-ray. Ai nostri ascoltatori che per primi hanno indovinato, li comunicheremo la prossima settimana, quando ci troveremo, come sempre, qui alle 18 del sabato, alle 17 della domenica, con tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.